Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Otto minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, partiamo dalla componente finanziaria, perché chiaramente il caso della giornata è il Monte dei Paschi di Siena. È ancora il miglior titolo a meno di mezz'ora dalla chiusura, più 6,40% nel giorno in cui la fondazione ha annunciato di essere scesa a questo punto al 5,5%, che era l'obiettivo che si era posta in vista dell'aumento di capitale. La Fondazione Monte dei Paschi doveva vendere la maggior parte delle sue quote dentro il Monte dei Paschi per ricapitalizzare e anche appunto per arrivare poi pronta all'aumento di capitale da 3 miliardi di euro che dovrebbe scattare a fine maggio. Lo ha annunciato di averlo fatto, nel senso che ha venduto un altro 6,5% della sua partecipazione a Fintech Advisory. Ha venduto a Fintech Advisor il 4,5% e a BTG il 2%, al prezzo di 0,237 euro per azione. Segnalo che il titolo adesso quota 0,268 euro per azione, quindi sopra, nettamente sopra il livello a cui ha venduto la fondazione, incassando 180 milioni di euro. A questo punto la fondazione scende al 5,5%. I nuovi azionisti hanno sede a New York e a Londra, rispettivamente Fintech Advisory e BTG Pactual, ma hanno origine latina, nel senso che la prima è una società di investimento del messicano Davide Martinez, che pochi mesi fa ha rilevato Telecom Argentina da Telecom Italia. L'altra invece, BTG Pactual, è stata a suo tempo tirata in ballo come possibile capofila di una cordata per comprare sempre da Telecom Italia Team Brasil. Avremo ospite tra poco più di un'ora la presidente del Monte dei Paschi di Siena, Antonella Mansi, che è stata la grande artefice di questa operazione e anche, lo ricorderete forse, fu quella che mise in piedi un braccio di ferro vero e proprio con la banca Monte dei Paschi di Siena, e quindi con Fabrizio Viola, amministratore delegato, e Alessandro Profumo, presidente, perché voleva più tempo per trovare compratori per la fondazione. Devo dire che, stante così le cose, ha avuto ragione la Mansi, perché appunto il tempo le è servito per trovare, per diciamo vendere un prezzo migliore. Questo era l'obiettivo, spiegandolo un po' in soldoni. E le altre quote in mano, fino ad oggi in mano alla Fondazione Monte dei Paschi. Ripeto, di questo parleremo con la stessa Antonella Mansi alle 18.15. Invece, per quello che riguarda l'apertura, resteremo sugli stipendi anche dei manager, ma ci occuperemo anche di Fiat. Oggi l'ultima assemblea a Torino, varie dichiarazioni sia di Marchionne che di Jonel Kahn. Il resto della borsa è positivo, diciamo che Milano è la più positiva oggi in Europa, più 0,80%, grazie alle banche. Non c'è infatti solo il Monte dei Paschi, c'è anche Mediobanca, più 3,70%, la Popolare di Milano, più 3,70% anch'essa, la Popolare Emilia Romagna, più 3,35%, Intesa San Paolo, più 2,60%, e Fiat, più 2,5%, bene anche Saipem, più 2,90%, infine UbiBanca più 2,50% e UniCredit più 1,5%. C'è invece un altro caso di borsa oggi, però anche lì bisogna fare attenzione. Allora, tra i titoli che perdono c'è da un lato IUX meno 2,70% e UnipolSai meno 1,40%, Pirelli meno 1,1%, Luxottica meno 1% come Terna. Poi c'è il Banco Popolare che perde nominalmente, diciamo così, il 16,2% a 15 euro per azione. Però attenzione, oggi parte l'aumento di capitale e quindi il calo è tra virgolette apparente, perché non tiene conto dei diritti. Se si tenesse conto dei diritti, il titolo sarebbe in rialzo. Molto bene oggi, visto che parlavamo di banche, anche il Credito Bergamasco, più 9,20%, in procinto di essere inglobato proprio dal Banco Popolare. E allora 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Purtroppo, toccherà anche tornare su una rubrica di cui farei volentieri a meno, è quella sulle spese pazze, lo spreco dei soldi dei cittadini pubblici da parte della pubblica amministrazione. Oggi ne abbiamo sia per il Parlamento che per la Regione Lombardia che per Promuovi Italia, ma insomma, quindi a dimostrazione che gli sprechi vanno a collocarsi, chiamiamola così, in tutta la filiera della pubblica amministrazione. Dicevo, la pagina di Focus Economia su Facebook, le altre notizie in breve. Allora, il Fondo Monetario Internazionale dice, attenzione, il problema delle banche too important to fail, in realtà il libro famoso fu too big to fail, quelle troppo grosse per poter fallire, non è ancora stato risolto, sono stati compiuti progressi ma c'è ancora spazio per ulteriori miglioramenti, lo afferma nel suo Global Financial Stability Report. Devo dire che è un periodo che io dal Fondo Monetario, con massimo rispetto, vedo arrivare un insieme di banalità e di cose che già sapevamo. È ovvio, nessuno ha mai messo mano al tema delle banche troppo grandi per fallire, e credo che non sia stato sciolto il nodo. Ma comunque, continuiamo con la fiera dell'ovvio. Continua il Fondo Monetario Internazionale, le attese di salvataggio delle grandi banche restano elevate. L'aspettativa di un intervento del governo in caso di stress test negativi rappresenta un implicito sussidio pubblico per le banche troppo importanti per fallire. Ok, ma al di là dell'analisi, ci dicesse e ci dica, per meglio dire, il Fondo Monetario Internazionale, che qual è la sua linea sulle le banche troppo grandi per fallire, perché il fallimento avrebbe effetti sistemici, cioè devastanti, sull'intera economia di quel paese e probabilmente anche dell'area geografica nel caso dell'Europa, perché da noi la BCE con l'OMT ha cercato di e con il Fondo Salva Banche di individuare una soluzione. Spostiamoci alla Grecia, dove nonostante tutto il governo è riuscito a approvare l'accordo con la Troica, che permetterà, quindi Fondo Monetario, Unione Europea e BCE, che permetterà di far arrivare in Grecia altri 10 miliardi di euro. Mentre parleremo anche non tanto del trionfo della destra nell'amministrativa in Francia, un dato più politico, crollano i socialisti che però conservano Parigi, terzo partito quello della Le Pen, ma di una Francia che ha chiuso il 2013 con un deficit del 4,3%, maggiore rispetto alle previsioni di un 4,1%, il debito va al 93,5%. Io, col massimo rispetto anche qui, però il mitico Olli Rehn, che è belga se non ricordo male, è sempre molto finlandese, è sempre molto morbido nel giudicare la Francia ed è sempre molto duro sull'Italia, sul 3% italiano, perché insomma la Francia, ho capito che ha un debito più basso del nostro, ce l'ha il 93% del PIL, noi viaggiamo stabilmente oltre il 100, arriviamo al 113% del 132% del PIL, però è anche vero che questo tetto del deficit al 3% sembra un mantra per Bruxelles. Invece Olli Rehn oggi risponde che non c'è sorpresa sul deficit della Francia. Ma come non c'è sorpresa? Olli Rehn doveva essere al 4,1, al 4,3. Noi, se avessimo fatto 3,2 invece che 3, ci avreste, diciamo, così, riempito di critiche. Non è una grande sorpresa, la Commissione l'aveva già calcolato. Vabbè, c'è un peggioramento, aspettiamo il piano di stabilità francese, va bene? L'inflazione. Mentre la Commissione aspetta il piano, l'Europa si avvia, se continua così, in deflazione. Allora, l'inflazione è allo 0,5% nell'area euro a marzo, un anno fa era all'1,7%. Sappiamo che per la Banca Centrale Europea l'inflazione non deve essere né troppo alta ma né troppo bassa, perché la deflazione crea un grosso problema. Intanto aumenta le possibilità che uno rinvii la spesa, ma soprattutto peggiora anche tutte le situazioni di debito, nel senso che se tu devi 1000 euro, uno Stato deve 1000 euro a una persona, a un soggetto fisico giuridico, se hai un'inflazione al 2%, i tuoi 1000 euro fra un anno varranno il 2% in meno. Se c'è una deflazione del 2%, in termini reali devi pagare di più, quindi ci sono tutto un insieme di complicazioni. E ripeto, oltre alle attese psicologiche che se i prezzi sono fermi o in calo tu tendi a rinviare gli acquisti. Beh, in Europa siamo allo 0,5%, un anno fa eravamo all'1,7%, gli aumenti sono stati solo sui servizi, alcol e tabacco, dove spesso gli aumenti però sono dovuti alle tasse, l'energia addirittura in calo. La Spagna, ricordo che mercoledì scorso è entrata ufficialmente in deflazione, i prezzi sono proprio calati dello 0,2. L'Italia è vicinissima alla deflazione perché l'aumento dei prezzi dello 0,4% vuol dire un aumento minimo dal 2009. L'Istat fa notare che la crescita dei prezzi del consumo si è dimezzata in soli 5 mesi, cioè dallo 0,8 allo 0,1. Anche il prezzo dei generi alimentari, a maggior frequenza d'acquisto, il cosiddetto carrello della spesa, siamo ai minimi dal 2010, più 0,7%. E poi abbiamo visto anche per la prima volta da 12 anni un calo dei prezzi delle sigarette, dello 0,5% anche su base annua. Nel frattempo oggi il Centro Studi Confindustria ha fatto notare che a marzo la produzione industriale aumenterà di uno 0,5%, la differenza da quanto rispetto a quanto producevamo prima dello scoppio della crisi è ancora del 23,5%, è una cifra immensa, nel senso che rispetto all'aprile del 2008 qui manca l'appello quasi un'impresa su quattro, cioè è come se fosse scomparsa un'impresa su quattro, produci quasi il 25% in meno. I dipendenti pubblici, allora, il rapporto dell'Istat relativo appunto all'ultimo censimento sulla pubblica amministrazione fa notare come dal 2001 al 2011 i dipendenti pubblici siano diminuiti di 370.000 unità e a fine 2011 erano in servizio presso le istituzioni pubbliche 2.969.000 persone, di cui 2.842.000 come dipendenti e altri 127.000 con altre forme contrattuali, quindi collaboratori coordinati continuativi o a progetto. Ancora, per quello che riguarda le istituzioni pubbliche, sempre l'Istat rileva che sono diminuite del 20% in 10 anni, a nostro avviso sono ancora tante, però 12.183 istituzioni pubbliche, hanno pesato accorpamenti soprattutto relativi agli ordini professionali e alle trasformazioni da istituzioni di diritto pubblico a istituzioni private, quindi non è che siano scomparse realmente. Ancora, per quello che riguarda la nostra pubblica amministrazione, faccio notare che il vicepresidente della Commissione Europea, Antonio Tajani, ha deciso di avviare le pratiche necessarie per un'altra lettera di messa in mora di infrazione all'Italia, che è in realtà la prima tappa per aprire la procedura di infrazione sul non recepimento corretto della direttiva europea sul ritardo nei pagamenti della pubblica amministrazione. L'Europa dice che entro 30 o 60 giorni devi pagare. I burocrati italiani si sono inventati questa cosa dalle gulei, per cui dicono: bene, però siccome c'è una mora dell'8% al giorno di ritardo più gli interessi, questo vuol dire che se non riusciamo a pagare entro 60 giorni pagheremo la mora e pagheremo in ritardo. L'Europa dice: no, tu non puoi mettere già come alternativa B il fatto che ti becchi la multa, devi solo dire che tu recepisci la direttiva in quel modo. La multa è come dire, siccome c'è la multa per passare col rosso, io posso passare col verde o passare col rosso. È una cosa che non sta né in cielo né in terra. Nessuno fai fare un esame della patente, dici così, giustamente ti bocciano. Ecco, l'Italia è riuscita a dire questa cosa. Io vorrei che emergessero però anche i nomi di questi capi dipartimento, dei ministeri che hanno risposto in questo modo. Ministro Madia, ce lo faccia sapere, visto che la pubblica amministrazione è in mano sua, chi ha risposto in maniera così delirante dicendo: vabbè, però uno può o pagare oppure prendersi la multa. Dell'ultima assemblea Fiat a Torino parleremo in uno spazio apposito. La nascita di FCA metterà fine alla vita precaria di Fiat, ha detto John Elkann. Per 20 anni ho vissuto la vita difficile e incerta dell'attività automobilistica di Fiat. Oggi per la prima volta abbiamo prospettive diverse. L'integrazione con Chrysler avverrà entro l'anno, ha continuato Marchionne. È Chrysler che ha salvato la Fiat, non il contrario. Anche qui avevo capito una cosa un po' diversa inizialmente. Non dobbiamo usare l'arroganza italiana per dire che noi abbiamo salvato te. Vabbè, la Fiat con Chrysler vale 4.600.000 vetture nel 2014, nel 2018 faremo altre 6 milioni di vetture. Non abbiamo, aggiunge Marchionne, non ci aspettiamo che la residenza fiscale nel Regno Unito comporti effetti significativi sul carico fiscale del gruppo. Allora la domanda è: perché l'hai fatta in Gran Bretagna? Dai Marchionne, cioè, allora io, tutto va bene, però o uno dice che è corretto, lo puoi fare legalmente, no? Abbiamo visto anche con Dolce Gabbana, l'abbiamo posta in Gran Bretagna perché fiscalmente ci conviene e siccome la legge lo prevede non c'è nessun reato, ma dire non ci aspettiamo che abbia effetti significativi sul nostro carico fiscale, allora la domanda è proprio perché l'hai fatta lì. E poi ha detto che con Termini Imerese, vabbè, il capitolo è chiuso, mentre non, con i nuovi investimenti a Mirafiori saranno riassorbiti tutti gli addetti più 1000 unità di Mirafiori. A Grugliasco, abbiamo riassunto tutti gli addetti più 1000 unità di Mirafiori, dove con i nuovi investimenti saranno riassorbiti tutti. Adesso vorrei arrivare al tema retribuzioni, perché abbiamo letto e sentito di tutto in questi giorni, confondendo i manager con i dirigenti di prima fascia, di seconda fascia della pubblica amministrazione. Devo però tornare su una rubrica di cui, ripeto, farei volentieri a meno. Abbassare la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag e più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blu, drag e più. Allora, se Rino Gaetano fosse ancora vivo, le auto blu forse le stiamo risolvendo, però. Allora, ricordate tutta la polemica degli affitti che il Parlamento italiano paga all'imprenditore romano Sergio Scarpellini? No, perché nel 1997 l'allora presidente della Camera Luciano Violante, ci dica perché lo fece, firmò con Scarpellini un affitto ventennale senza clausole di recesso e senza gara pubblica per un insieme di immobili. Allora, ce n'è uno, si chiama Palazzo Marini a Roma. Stanze vuote immacolate. È la sede degli uffici parlamentari, dei parlamentari, che però qua non vengono mai. Ci sono 300 stanze per 400 deputati, e poi ci sono sale conferenze, sale riunioni, segreterie, librerie, decine di bagni, volte affrescate, colonne marmoree, ma che è Caligola, 10.000 metri quadrati suddivisi in tre prestigiosi complessi immobiliari, computer in ogni stanza, televisione, poltrone in pelle, non umana come quella di Fantozzi, ma ci siamo vicini, scrivania, telefono, stampante, fax, praticamente sempre vuoti. Sono porte in legno, finestre con vista, tutto. Ogni tanto si vede qualche parlamentare, c'è la vigilanza, per cui si paga la vigilanza, i metal detector, due custodi per ognuno dei cinque piani, che sostanzialmente passano il tempo a fare i cruciverba, addetti alle pulizie alla fine giornata. Quanto costa lo scherzetto? Beh, costa 32.500.000 di euro l'anno, compreso lo stipendio dei circa 300 addetti ai servizi. Allora, quindi l'affitto è pagato dallo Stato alla società Milano 90, appunto, di Sergio Scarpellini. Sono 500 milioni di euro per quasi 20 anni, 80.000 euro annui per ogni deputato. Allora, noi pagheremo 500 milioni in 20 anni, 80.000 euro per ogni deputato, che raramente va lì, ma non per colpa sua, magari perché ha altre cose da fare, sedute parlamentari, sedute in commissione, quello che deve fare. Però perché avere 300 stanze per 400 deputati? Tra l'altro non si può neanche, non essendoci il diritto di recesso, questo affitto non si può nemmeno togliere perché rischi le sanzioni. Comunque, solo per uno dei quattro complessi di Palazzo Marini, il cosiddetto Marini 1, è stato possibile recedere il contratto 3 anni fa. niente da fare per ora per Marini 2, Marini 3, Marini 4, poi ci sarà pure Marini la vendetta e il ritorno di Marini. All'inizio i contratti arrivavano fino al 2036, poi a settembre la Camera ha detto che arriveranno fino al 2018, ma lo scandalo resta tutto. Spostiamoci alla Regione Lombardia. Io non ce l'ho con la Regione Lombardia, infatti parliamo di tutte le regioni, però qui si va praticamente, rischiano il processo i 64 consiglieri tra ex e attuali di Palazzo Lombardia. Sono 31 del PDL, 23 della Lega, 5 del PD. Ha scoperto la magistratura che dei 3 milioni di euro chiesti come rimborso elettorale nella precedente legislatura, il 70% dei 3 milioni di euro, voi direte, a cosa servono i 2/3 dei rimborsi elettorali per fare attività politica? No, voi pensate questo. 2 milioni e 140 mila euro sono stati spesi solo per ristoranti, banchetti, vini, bar e supermercati. Cioè il 70% dei 3 milioni di euro di rimborsi elettorali, che io già abolirei, metterei una nota a spese come fanno per tutti, e poi l'attività politica ha trovato un altro modo di farlo. Tanto non ci si riesce a star dietro. 2 milioni e 140 mila euro solo per queste voci. Degli scontrini c'è di tutto, perché ogni tanto qualcuno mi scrive: ma lei se la prende per i 3 euro, i 4 euro? No, quello è solo per far ridere. A me non mi frega nulla che un consigliere regionale della più ricca regione d'Italia metta a rimborso 2,70 euro per un vasetto di Nutella. Poi sull'utilizzo del vasetto di Nutella gli ascoltatori hanno diverse idee, ma ci sono i 2.200 euro per caviale pesce vario, oppure i 1.100 euro per 120 bottiglie di vino refosco, che va bene. No, ma perché devo pagartele io? Pagatele tu se devi regalarle per fare, diciamo, relazioni esterne. Ma perché devo pagarti io il refosco? Abbi pazienza. Vabbè. Io su questo vorrei chiudere su un'ultima cosa, visto che adesso parliamo di manager, dello stipendio dei manager e dei dirigenti della pubblica amministrazione. Allora, già c'è un ente che è inutile, si chiama ENIT, Agenzia Nazionale Italiana del Turismo, non perché sia inutile come fa la Francia avere un'agenzia nazionale che coordini le politiche per il turismo, purtroppo ce l'hanno ancora le regioni, il turismo, e finché resterà così continueremo ad andare in ordine sparso. Ma l'ENIT era inutile quando io avevo 20 anni, facevo la tesi, perché già si diceva che quello era un carrozzone, che non aveva i soldi neanche l'ENIT a Monaco di Baviera, mi ricordo, staccava i telefoni a metà anno, Monaco di Baviera, cioè i tedeschi, i primi turisti italiani, perché aveva finito i soldi, e quindi per non rispondere e non aveva nulla da dire staccava direttamente il telefono, una cosa bellissima. Ma parliamo di oltre 20 anni fa. Adesso l'ENIT esiste, è dimissionario, si è dimesso il presidente Luigi Celli, che è persona seria, dopo anche la vicenda di Promovitalia. Che cos'è Promovitalia? È un'agenzia del dipartimento, è un'agenzia dell'ENIT. La cosa bellissima è che i manager si sono alzati da soli lo stipendio. Abbiamo già in collegamento l'ospite, così adesso gliela facciamo ascoltare questa. I manager si sono alzati da soli lo stipendio e hanno assunto senza criterio. Lo ha raccontato un audit interno della stessa agenzia, che fa luce in particolare sull'operato dell'ex direttore generale, si chiama Francesco Montera, è stato licenziato lo scorso 15 ottobre perché si sarebbe più volte aumentato i benefit e lo stipendio in maniera arbitraria. Non lo dico io, lo dice l'audit, diciamo, il controllo, l'analisi che è stata fatta internamente, in maniera arbitraria, arrivando a prendere fino a 260 mila euro l'anno. Peccato che il suo stipendio fosse 160, e ci poteva pure campare con 160 per quel ruolo che è importantissimo per il turismo italiano che ha svolto in questi anni Promuovi Italia. 100 mila in più quindi se li ha aumentati di sua sponte rispetto al primo stipendio. Montera quindi in 4 anni ha percepito tra i vari elementi 360 mila euro più del dovuto. Ma lo stesso meccanismo sarebbe stato usato per aumentare lo stipendio dei 3 vice direttori mandati via a gennaio, che avrebbero percepito in totale 700.000 euro in più del dovuto. Ma oltre ai soldi di stipendio, i quattro, Montera e i tre vice direttori, simpatico gruppo di amici, avrebbero anche beneficiato di un garage costato 105.000 euro e di 10, ma come siete in quattro, 10 telefonini aziendali costati 8.000 euro. Tutto questo poi bisognerebbe anche vedere cosa cavolo ha combinato in questi anni Promuovi Italia. Non deve aver combinato tantissimo, perché attualmente è in liquidazione. È costata ai contribuenti italiani dal 2004 al 2013 11 milioni di euro l'anno, di cui 7 milioni di euro solo per il personale. Cioè 11 milioni vuol dire che abbiamo speso 110 milioni di euro di cui 70 solo per il personale, che conta, pensate un po', voi dite, ma sarà una piccola agenzia? No, 1100 persone. 1100 persone per Promuovi Italia, che adesso è in liquidazione. Allora, secondo l'audit, le spese ingiustificate di Promuovi Italia ammonterebbero a 1.800.000 euro in totale, e a cui si vanno a sommare le assunzioni facili, 400, ma come, siete in 1.100 e avete bisogno di 480 contatti? Ma cosa faceva Promuovi Italia solo nel 2010, tra cui il figlio e il nipote di due ex dirigenti del Ministero dei beni culturali? Voi direte, beh, meno male che hanno licenziato Francesco Montera e i suoi tre vice direttori. No, perché questo è il paese della zecca garbugli. I quattro hanno fatto ricorso al giudice del lavoro. Se il tribunale accoglierà l'istanza, probabilmente l'agenzia Lenit, e quindi noi italiani, dovremmo sborsare altri 2.500.000 di euro e reintegrare i lavoratori. Io spero che diciamo questo luogo comune, che i giudici del lavoro danno sempre comunque ragione al lavoratore e mai all'azienda, venga smentito in questo caso, perché se tutto questo, ed è l'audit interno che lo dice, è vero, non capisco per quale motivo non deve essere reintegrato. Però sapete, ci sono gli avvocati, ci sono i giudici del lavoro, va bene, va bene. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Ringrazio la General Manager di ODM, Simonetta Cavasin, per averci raggiunto in collegamento. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Voi vi occupate di retribuzioni, studiate le retribuzioni dei manager pubblici e privati. Adesso ho il meteo e la pubblicità. Ecco, questo mi sembra un caso in cui, diciamo, forse qualche tipo di controllo andrebbe fatto, visto poi anche il risultato. Però del resto parliamo dopo il meteo e la pubblicità. A 7:38 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. No, lo dico perché poi in questa cavolo di retorica usciamo dall'euro. Io cerco di spiegarlo. Un conto è criticare l'Europa e la gestione dell'euro, attrazione tedesca. Ma poi mi spiegate uscire dall'euro al di là dell'incubo che sarebbe? Poi sento questi che fanno, pontificano. No, non è vero, i mutui. Ma che cazzata di? Quando l'Italia uscì dalla lira, fu cacciata dallo SME, il nostro BOT rendeva il 17%. Vuol dire che i mutui andavano vicini a quella cifra, ok? Ma al di là di questo, i problemi di questa pubblica amministrazione, di questi ladri legalizzati, di questa malversazione, cattiva abitudine, li risolviamo uscendo dall'euro? Con la liretta? No, ma io non so, mi sembra di vivere in un mondo di pazzi. Il problema è sempre un altro, vero? Il capro espiatorio, la perfida Albione, il complotto pluto giudaico massonico, mo l'euro, sì, è vero, è l'euro che ha fatto pagare ste cifre a Palazzo Marini, vero, è l'euro, ed è l'euro quello che ha fatto portare al 70% il rimborso dei trader della ex regione Lombardia per ristoranti e banchetti, ed è sempre l'euro che fa utilizzare i soldi pubblici come hanno fatto Francesco Montera e i suoi vice direttori a Promuovi Italia. Mi chiami Montera se vuole, guardi, non aspetto altro, sempre di qualcun altro la colpa. Va bene, va bene. Allora, Simonetta Cavasin, voi avete pubblicato il 17° rapporto sulle retribuzioni in Italia del settore privato, perché come ODM Consulting di questo vi occupate. Avete elaborato circa 400.000 profili, 400.000 buste paga di dipendenti privati, che siano dirigenti, quadri, impiegati ed operai, tra il 2009 e il 2013. Allora, siccome c'è questa vulgata che dice sì, i dirigenti guadagnano tanto nella pubblica amministrazione, ma anche nel privato non si scherza, che per me è una cavolata, perché nel privato rischi in un altro modo, puoi chiudere, vieni licenziato e quant'altro, nel pubblico sappiamo che raramente accade. Vedi il caso anche di Montera, che ha già fatto ricorso al giudice del lavoro, no? Perché la faccia di tolla, no, non Montera, in generale. Allora, mi dice esattamente come si sono mosse le retribuzioni, soprattutto negli ultimi 2 anni, per dirigenti, quadri, impiegati ed operai, e anche a seconda dell'area geografica e della categoria? Prego. Va bene. Allora, visto che parliamo di guadagnare tanto e guadagnare poco, vi do degli ordini di grandezza in valori assoluti, che così questo credo che possa essere interessante per chi ci ascolta. Un dirigente 2013, il livello di retribuzione fissa medio è di 93.000 euro. In totale la retribuzione totale annua si assesta sui 110.000 euro. Quando parliamo di quadri arriviamo a 50.000 euro per una retribuzione totale annua di 54.000 euro. Quindi sono ordini di grandezza assolutamente rilevanti, però diciamo non sono sicuramente ordini di grandezza eclatanti da questo punto di vista. Il trend retributivo negli ultimi due anni dal nostro osservatorio ha avuto un leggero rialzo, cioè c'è stata quella che noi non possiamo chiamare in questo momento una vera e propria inversione di tendenza, però sembra che il periodo in cui la stagnazione retributiva era di fatto un dato di fatto, era un elemento concreto, un dato di fatto, lo dicevano i numeri, forse sembra in qualche modo passato. Quindi stiamo vedendo una dinamica retributiva un pochino più forte, sia partendo dai ruoli diciamo di dirigenti, ma anche per quanto riguarda i quadri, gli impiegati e gli operai. Speriamo che questo sia un segnale rispetto anche a quello che si dice come timido segnale di ripresa. Quindi quando parliamo poi di ordini di grandezza sulle retribuzioni dobbiamo appunto essere attenti a chi prendiamo come riferimento. Quando si ragiona sui ruoli apicali di un'organizzazione, allora, e quindi quando si va ad esempio a vedere poi le retribuzioni dei manager di società quotate in borsa a partire dagli amministratori delegati, parliamo di ordini di grandezza diversi, con soprattutto per le quotate in borsa, con una trasparenza sempre più diffusa sui meccanismi sì. di politica retributiva. Allora, riepiloghiamo, tra il 2012 e il 2013, i dirigenti che voi avete analizzato, che sono tantissimi, perché in tutto avete 400.000 profili, hanno guadagnato in media l'1% in più, in valore nominale, quindi tutto sommato si sono messi in linea con l'inflazione, forse nemmeno, a 110.000 euro lordi. I quadri 54.000 euro lordi, lo 0,3% in più, gli impiegati 28.500 euro lordi, il 2,5% in più, gli operai 23.000 euro lordi, il 4% in più. Quindi, tra l'altro, come recupero dell'inflazione, se uno va a guardare anche dal 2009 al 2013, i dirigenti guadagnano 6% in più, i quadri il 4%, gli impiegati il 9%, gli operai l'8%. Mi fa piacere, nel senso che nel privato, evidentemente, quelli che sono rimasti al lavoro, beh, c'è stato un aumento più forte del salario di operai e di impiegati. Però, mi scusi dottoressa, queste cifre sono molto molto distanti da quelle che vediamo nei dirigenti del pubblico impiego, perché al di là del fatto che, e non ripeto, non tutti, sappiamo che la scuola per esempio non ne ha nessuno, ma il 90% dei dipendenti del corpo diplomatico, dei magistrati, è sopra gli 80.000 euro. Qua c'è un tetto che ha fatto molto discutere, a 311.000 euro lordi l'anno, cioè lo stipendio del primo presidente della Corte di Cassazione, che stando i vostri dati sul privato, no, lo dico anche a Moretti, che sicuramente ha un altro standing, ci mancherebbe, è un altro mercato, però attenzione che nel privato, guardando i dati complessivi di tutto, non è che questi dirigenti guadagnino ste cifre fantasmagoriche. Abbiamo appena commentato, sì, ce l'ho con Montera oggi, va bene, con Francesco Montera, ex direttore generale dell'inutile ente Promuovi Italia, visto che è in liquidazione, che non gliene bastavano 160, si è aumentato arbitrariamente a 260.000 euro lordi. Voi mi state dicendo che nel privato tutto questo grasso che cola non si vede. Allora, direi non si vede, anche qui non possiamo fare di tutto un erba un fascio. Ho capito, però questa è una media, ci sarà chi prenderà 300.000 e chi prenderà 70.000. Infatti nelle società quotate in borsa, e faccio riferimento al rapporto sull'executive compensation che noi ogni anno elaboriamo, ad esempio il livello che lei citava, quindi 300.000 euro circa, tenendo conto retribuzione fissa e retribuzione variabile, è una retribuzione media di un dirigente con responsabilità strategiche. Io esprimo, diciamo, una mia riflessione personale, avendo letto anche proprio pubblicato da Sole 24 Ore un articolo molto approfondito, esatto, su questo tema. Credo che, allora, come fanno le aziende private a ragionare su temi retributivi? Si parla di equità interna e di equità esterna. Quindi nelle aziende private c'è un modo di leggere i ruoli all'interno dell'organizzazione che ne definisce un peso relativo al contributo che il ruolo porta nell'organizzazione. E quindi questo fa in modo che nelle aziende private ci sia un confronto sui livelli retributivi all'interno per capire i giusti equilibri. L'altro elemento è il confronto con il mercato esterno, che è un elemento costante, e il terzo elemento è comunque il confronto con i temi della meritocrazia e della performance, che nel contesto italiano, nelle aziende italiane magari non siamo ai massimi livelli, però sicuramente negli ultimi anni il confronto con i risultati aziendali e con i risultati individuali ha fatto la differenza. Quindi gli ordini di grandezza sulle retribuzioni possono essere, non c'è mai un giudizio di valore. Il tema è il valore del ruolo che porta, no, ma ho capito, all'azienda e all'organizzazione. Lei dice non basta essere un dirigente, occorre capire anche qual è il ruolo operativo, la responsabilità che ti assumi con quel titolo di dirigente. E poi c'è anche il corrispettivo esterno, cioè se il dirigente che ha, non so, in mano tutta la parte marketing, pongo un tema a caso, se una società analoga lo paga 100, tu difficilmente lo vai a pagare 200 se siete sullo stesso mercato. Però mi dica un'ultima cosa, anzi me la dica dopo il traffico, un suggerimento gratis a Cottarelli, che sta arrabbiato per come è stato trattato da Renzi, ma anche lo stesso premier Matteo Renzi. Adesso il tetto è il primo stipendio lo stipendio del primo presidente della Corte di Cassazione. Oltre a questo c'è chi dice: attenzione, usate più parte variabile. Insomma, se lei dovesse essere presa come consulente per la pubblica amministrazione, che regola aurea porrebbe, fermo restando che noi abbiamo dirigenti della pubblica amministrazione che guadagnano in media 12 volte il reddito pro capite, quindi ogni mese guadagnano quello che un italiano guadagna in un anno, e invece in Gran Bretagna è 5 volte il reddito pro capite, quindi praticamente guadagna quello in 5 mesi, ogni mese guadagna quello che un normale britannico guadagna in 5 mesi, e in Germania 4 volte. Anche questo è colpa dell'euro? Chiedo. E i dirigenti italiani al top sono pagati 12 appunto volte il reddito pro capite, quelli di prima fascia 10 volte, ecco. E mentre appunto Germania e Francia hanno percentuali che sono la metà, hanno rapporti che sono la metà. Dopo il traffico, il suo consiglio su come legare le retribuzioni. Non mi basta il tetto, vorrei anche vedere la produttività di questi capi dipartimento, dirigenti della PA. Allora, mi dia questa ricetta per la pubblica amministrazione, per favore. Pronto? Pronto, mi sente? Sì, adesso sì. Eccomi. Allora, io lavorerei sul compensation mix. Mi spiego meglio. Su che? Sul compensation mix, cioè sul rapporto tra retribuzione fissa e retribuzione variabile. Quindi io posso anche potenzialmente arrivare a guadagnare 1 milione di euro, però questo 1 milione di euro può essere fatto da una parte fissa molto bassa e una parte variabile molto alta. Quindi il punto potrebbe essere veramente quello di individuare un riferimento di retribuzione fissa sul quale appunto agganciare dei valori di retribuzione variabile molto competitivi, a loro volta legati a obiettivi altrettanto sfidanti e competitivi. E credo che nella pubblica amministrazione e in generale nel settore pubblico, ma come nel settore privato, di possibilità di portare miglioramenti in modo radicale ce ne siano. Quindi il riconoscere poi alti livelli di retribuzione variabile è legato al raggiungimento del risultato e al valore che le competenze di quella persona e di quel determinato ruolo hanno portato. Credo che a questo punto... Quanta parte, per concludere, quanta parte fissa e quanta parte variabile per i dirigenti della pubblica amministrazione? 50-50. Sì, in questo momento 50-50. Ma arrivando comunque anche a un livello più europeo, cioè che non sia più di 5-6 volte lo stipendio medio? Allora, questo è sicuramente un percorso che si può fare andando già ad esempio a confrontare il mercato della pubblica amministrazione con il mercato privato, e questo è un lavoro, i numeri ci sono, i dati ci sono, e si può creare sicuramente un pacchetto retributivo comunque competitivo. Non dimentichiamoci che ci sono anche delle prassi di incentivazione a medio-lungo termine, quindi quelli che i long-term incentive, che possono creare pacchetti estremamente... Sì, però mi scusi dottoressa, c'è un problema. Noi abbiamo visto la settimana scorsa che il 90, se ne è accorto solo 24 ore, il 97% di alcuni manager, della maggior parte dei manager di alcuni ministeri, dirigenti, ottiene sempre gli obiettivi che si sono preposti. Allora dovremmo avere praticamente tra Einstein, capito? Non va bene il sistema degli obiettivi, bisogna rivedere completamente il sistema degli obiettivi. Senta, tutto questo non passa però per la licenziabilità vera, reale nel pubblico impiego? Guardi, io sono molto abituata a lavorare con le aziende. No, anche nei quadri, voglio dire, se l'efficienza poi passa anche con la possibilità, non in maniera indiscriminata, ci mancherebbe, nemmeno nel privato uno può licenziare perché non ti piacciono i colori dei capelli o per motivi di genere o di religione, ma stiamo scherzando. Però insomma, dire devi raggiungere gli obiettivi, se no non mi servi, a mio avviso c'è solo questo che poi fa scattare le persone come terrore finale. Però guardi dottor Barisoni, io su questo credo che sia proprio un tema anche di lavoro sugli obiettivi, già trasformare i livelli retributivi rendendoli più competitivi, nel senso in cui dicevamo prima, aiuta sicuramente maggiormente le persone a orientarsi. Poi possiamo arrivare a mali estremi e estremi rimedi, però come posso dire, questo tipo di logica è veramente a male estremo e estremo rimedi. Vabbè, lei non la convince di introdurre la licenziabilità effettiva nel pubblico impiego. No, ho capito, benissimo. Dice, prima iniziamo a lavorare sugli obiettivi, che è sicuramente una strada, ci mancherebbe. Poi voi avete fatto un rapporto così completo ed esaustivo sul privato che chiunque se lo può scaricare dal sito di ODM Consulting e vede che nel privato tutto questo oro per i dirigenti, in media, non c'è. Tra l'altro, se andiamo sui settori, industria 110.000, commercio 108, servizi 101, mondo della finanza e delle banche 118, quindi anche lì mi sembrano abbastanza livellati gli stipendi medi dei dirigenti. Grazie a Simonetta Cavasin, General Manager di ODM Consulting. Ragione chi scrive un sottufficiale della Guardia di Finanza prendo 1.800 euro da 6 anni a stipendio bloccato e continuiamo a dire che gli stipendi dei dipendenti pubblici normali sono bassi, sono anche sotto la media europea molto spesso. Il vero problema, sì, ce l'ho con loro, sono i dirigenti, i capi dipartimento, quelli sono fuori, i dirigenti di prima fascia e seconda fascia sono fuori da ogni classifica europea, non il sottufficiale della Guardia di Finanza, l'insegnante, il medico, su. Allora, adesso il GR24, poi però parliamo di Fiat e della borsa, che ha chiuso, lo dico, con un rialzo del migliore in Europa dello 0,90%. Avremo ospite la presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Antonella Mansi, che oggi ha ceduto le ultime quote che doveva ancora cedere. Il titolo ha fatto il botto, anche se ha ritracciato nel finale più 4,90%. 349-238-6666 per gli sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Alle 18:08 riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni e allora, in attesa di collegarci con la presidente della Fondazione Monte dei Paschi, Antonella Mansi, commentiamo la borsa. Chiaramente il Monte dei Paschi oggi è stata una delle due notizie principali, alla fine più 4,90%, l'altra riguarda il Banco Popolare, ma attenzione perché è partito l'aumento di capitale, il calo nominale teorico del 12,33%. Eleonora Micheli, Radio Colli Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, Eleonora, dici intanto sul Banco Popolare qual è, perché con i diritti il calcolo sarebbe diverso, e poi perché Monte dei Paschi ha ritracciato nel finale. Sì, per quanto riguarda il Banco Popolare, apparentemente le azioni hanno perso il 12%, in verità, tenendo conto del TERP, vale a dire il prezzo teorico senza i diritti per sottoscrivere l'aumento di capitale, il rialzo sarebbe stato superiore al 15%. C'è molto interesse a dare il là ovviamente agli ordini in acquisto, sono state anche le dichiarazioni dell'amministratore delegato Saviotti, che sabato scorso in assemblea ha parlato di interesse da parte di investitori americani. Per quanto riguarda MPS si è un po' rallentato, d'altra parte gli scambi sono stati consistenti, è passato di mano oltre 1 milione di azioni, c'è ovviamente molto grande curiosità per comprendere che cosa succederà alla banca senese, alla luce del fatto che la fondazione, del tutto a sorpresa, quest'oggi ha venduto un'ulteriore quota e comunque ha siglato un patto parasociale per controllare il 9% delle azioni. E quindi più 4,87% a 0,265 euro contro 0,237 per azione, che è quello a cui l'ha venduta ai nuovi due azionisti, Fintech Advisory e BTG. Allora vedo che adesso le regie mi dicono che abbiamo anche la Presidente della Fondazione Monte dei Paschi, resta con noi Leonora, perché poi commenteremo gli altri titoli di borsa. E allora, al di là dell'andamento del titolo in borsa, è chiaro, come abbiamo spiegato, tutto è stato legato, influenzato dall'annuncio che la fondazione ha ceduto un altro 6,5% della sua partecipazione, in questo caso a Fintech Advisory il 4,5% e BTG il 2%. Il prezzo è di 0,237 euro per azione, ha incassato 180 milioni di euro e a questo punto la fondazione Monte dei Paschi riduce la sua partecipazione al 5,5%. Siamo in collegamento con la grande artefice di queste operazioni della Fondazione Monte dei Paschi, ossia la Presidente Antonella Mansi. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, voi siete usciti al 5,5%, poi arriviamo anche alle prospettive e alla sua valutazione, però avete sottoscritto con gli acquirenti un patto parasociale relativo alla governance dell'istituto e anche a taluni limiti al trasferimento delle azioni conferite dal patto. Ci può spiegare la ratio, cioè il perché di questo? Beh, questo fa un po' parte del percorso che abbiamo fatto fino ad oggi. Quando noi abbiamo cominciato a lavorare con la Fondazione Monte dei Paschi avevamo un mandato molto chiaro, che era certamente quello della rimessa in sicurezza dell'ente, che come tutti sanno si trovava in una situazione piuttosto complessa. E in quella prospettiva, nel caso in cui fossimo riusciti poi a dare un nuovo futuro alla nostra partecipazione e più che altro alla fondazione, chiaramente è un po' nella identità della fondazione voler guardare certamente all'elemento economico, ma non solo. Cercavamo anche di poter valorizzare la nostra partecipazione all'interno di Banca Monte dei Paschi, laddove fossimo riusciti a mantenerla, in termini più strategici. Probabilmente l'operazione conclusa oggi, che ricordo comunque sarà vagliata in termini autorizzativi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di Banca d'Italia, va in quella direzione. Ecco, in questo modo voi avete incassato altri 180 milioni di euro, avendo ridotto la vostra partecipazione come fondazione al 5,5%, lei considera l'operazione di dismissione, cioè di riduzione della quota in vista dell'aumento di capitale, conclusa? Beh, certamente abbiamo fatto la massima parte del percorso, sono valutazioni che stiamo facendo, anche perché poi in una logica, se mi consente, un po' imprenditoriale, per quello che ci riguarda l'obiettivo di fondo e poi sulle prospettive dell'ente, e la partecipazione verrà gestita in termini funzionali ai nostri obiettivi. Ecco, diciamo la missione sopravvivenza, quella almeno è conclusa? Beh, certamente sì. Oggi abbiamo fondamenta solide su cui poter ricominciare a ricostruire. Dunque, adesso il primo azionista del Monte dei Paschi è BlackRock, primo azionista unico con il 5,7%, che tra l'altro è anche azionista, primo azionista unico di Unicredit e secondo di Intesa San Paolo. Poi, se ho ben capito, ci siete voi come Fondazione Monte dei Paschi col 5,5% e poi le new entry, i nuovi arrivi, FinTech Advisory il 4,5%, c'è JP Morgan che mantiene il 2,5%, AXA il 2% con BTG. Secondo lei, a questo punto, la Fondazione, non essendo più l'azionista di maggioranza relativa del Monte dei Paschi, che ruolo dovrebbe avere nel futuro? Certamente quel ruolo di stabilità e quel ruolo di indirizzo con diciamo la possibilità di dare un forte collegamento al territorio. Questo è un po' nella vostra vocazione fondazionale, ma è anche, credo, un elemento di vantaggio e di valore per la banca. Quindi a questo punto però non ci sono più ostacoli, diciamo così, per l'aumento di capitale da operare entro fine maggio, cioè 3 miliardi di euro. Voi parteciperete? Certamente sì, e a questo punto per una quota che definiremo, ma insomma diciamo la nostra partecipazione al patto è già una dichiarazione esplicita delle nostre intenzioni future. Quindi almeno il 2,5%? Almeno il 2,5%. Ecco, su questo, dottoressa Mansi, lei dice emergenza è finita, c'è il lavoro di ricostruzione, che fermo restando che poi la banca Monte dei Paschi è gestita da Fabrizio Viola e poi Alessandro Profumo, ma lei che cosa immagina come ruolo nuovo come spinta che voi potete dare come fondazione al nuovo ruolo del Monte dei Paschi? Ma io credo che la banca si sia avviata da tempo in un percorso di ricostruzione, di ristrutturazione importante, in un momento estremamente sfidante e con un passato pesante. È chiaro che tutti noi ci auguriamo che possa tornare ad essere un elemento di vantaggio, lo dico da imprenditore, per tutto il mondo economico, ma certamente per tutto il mondo del risparmio. Banca Monte dei Paschi è la terza banca del paese e credo che abbia tutto il diritto di giocarsi un futuro all'altezza del passato che ha avuto. Quindi anche da qui lo chiedo più all'imprenditrice, visto che lei è anche vicepresidente di Confindustria, anche nel rapporto banca-impresa, cioè tornare insomma a aiutare il territorio? Beh, questo è un auspicio, ma anche di più, è una necessità del sistema economico, perché è chiaro che la liquidità è un tema rilevante per tutto il mondo delle imprese, il sostegno del sistema bancario in maniera proattiva e forte ha fatto nella storia del nostro paese anche la forza del sistema delle nostre imprese, quindi sono due facce della stessa medaglia che devono tornare a parlarsi e in che modo anche a lavorare insieme nella unica direzione di tirar fuori il paese da questa situazione. Senta, ancora due cose. La prima, è sempre facile col senno di poi, però a questo punto lei ha avuto ragione nel dire, in quel famoso braccio di ferro che la contrappose a Viola e Profumo, nel dire ho bisogno di più tempo per cedere le quote, altrimenti le avrei svendute. E la considera come una sua vittoria? No, guardi, io la considero come il completamento di un percorso duro, sicuramente complesso, non sempre popolare, se me lo consente, però dal mio punto di vista, e poi io voglio ricordare, sono un po' la punta di un iceberg fatto di tante persone che hanno creduto e lavorato in maniera veramente molto forte e molto importante a questo risultato. Siamo partiti dai nostri convincimenti, ma anche, se mi consente, in una condizione che non ci dava molte alternative. Beh, un po' di soddisfazione ce l'ha però, dai. Ma sì, io poi tendo a essere sempre con i piedi per terra, però insomma non posso nemmeno negarmi la realtà. Allora no, ho capito, nonostante diciamo la diplomazia. Senta, un'ultima cosa, insomma, lei viene da un'esperienza di imprenditrice in primo luego, ma poi anche di un'esperienza confindustriale forte, è stata presidente degli industriali toscani, è vicepresidente di Confindustria, non ha voglia di rientrare a fare quello che faceva prima? Ma guardi, in certi giorni tantissima, devo dire la verità. Poi io sono una persona che non si annoia mai, perché ho avuto sempre il privilegio di fare le cose che mi piacciono. È chiaro che per me il cuore però sta in azienda, questo chi mi conosce bene lo sa. Ma lei insomma quando immagina finito il suo mandato in Fondazione Monte dei Paschi? Diciamo che io lo leggo molto ai risultati, in una logica non legata alle scadenze statutarie, per cui da un certo punto di vista un pezzo del percorso è fatto, c'è sicuramente da fare molto. Sul tema finanziario direi siamo abbondantemente al di sopra, poi è chiaro che c'è tutto un mondo che è legato alla fondazione da rimettere in piedi, però questa decisione non spetta soltanto a me e non la prenderò oggi, insomma non è un tema per me all'ordine del giorno. Non mi dà la notizia, insomma. Senta, un'ultima cosa, insomma lei è giovane, non dico bella perché è una cosa che trovo molto sessista, ma è giovane, e poi non sta mai a giudicarlo. Ha un'esperienza importante come imprenditrice, come anche rappresentante degli imprenditori, adesso anche come presidente di una fondazione bancaria con le difficoltà che aveva questo aumento di capitale. Non le interesserebbe andare oltre, non so, c'è tutto il gioco delle partecipate dello Stato, è molto vicina a Renzi, non dico perché è toscana, ma diciamo come profilo, no? Sinceramente io non mi sono mai posta questi obiettivi, ahimè nella mia vita sono sempre stata chiamata e questo credo che sia un elemento da non trascurare per quel che mi riguarda. Io non mi sono mai annoiata, ma insomma in questo senso non ho ambizioni, per quanto magari non ci si possa credere, insomma non sono una persona che insegue le poltrone e tantomeno lo faccio adesso. Sono le poltrone che inseguono lei? Ma non lo so, questa ultima poltrona non era certamente una poltrona particolarmente comoda, insomma, per no. Cui... Indubbiamente non era una scelta da carrierista la mia. Sono una persona soddisfatta, per cui colgo la vita per quel che mi dà. Ma lei non percepisce stipendio come presidente di una fondazione? Ci sono alcuni emolumenti, ma insomma diciamo siamo molto lontani dagli stipendi di una volta, e al di là di questo insomma è chiaro che la fondazione in una fase di questo tipo ha poco da pensare agli emolumenti interni, ha molto da pensare al suo percorso. Io l'ho sempre vissuta fin dal primo momento come un servizio che ho reso al mio territorio. Grazie, in bocca al lupo alla Fondazione, al Monte dei Paschi e a lei anche come per le mosse future. Devo dire che, come già ricordava, almeno il giro di boa l'avete fatto, perché il vero scoglio era arrivare a diminuire la quota in vista dell'aumento di capitale. Grazie alla Presidente della Fondazione Monte dei Paschi, Antonella Mansi. Grazie a voi, buonasera. Allora, onorevole Michele, hai sentito anche tu in diretta, insomma, la Mansi resterà alla Fondazione, non per tantissimo, ancora per un po', ma non vuole correre per altre cariche. Ti chiedo ancora un minuto al traffico, poi gli altri titoli di borsa. Diciotto e 21 minuti, ultima parte di Focus Economia. Dunque, Eleonora, al di là del Monte dei Paschi e del Banco Popolare, Mediobanca più 4%, Pop Emilia Romagna più 3,90%, 3,80% la Popolare Milano, il 2,80% UbiBanca, il 2,40% Intesa San Paolo, c'era anche uno spread a 170 punti, Leonora. Ma Sebastiano, ti vorrei dire che tutti i trader che sento, ma veramente tutti indistintamente da tutte effetto le sale Renzi, operative... Effetto Renzi, dai, so dove vuoi arrivare, effetto Renzi. No, assolutamente. Mi dicono che ormai da tempo c'è un interesse per l'Italia da parte di investitori esteri. Saviotti ha parlato di interesse di americani per il Banco Popolare sabato scorso, ma al di là di questo tutti i trader sostengono che arrivano grossi ordini dall'estero, si compra Italia. Anche alla scorsa settimana alla Star Conference c'era un gran pieno di analisti e investitori stranieri proprio interessati alle aziende italiane, quindi evidentemente c'è molto interesse, probabilmente per l'effetto Renzi, ma più che altro perché Piazza Affari è la più lontana dai massimi del 2007 e quindi probabilmente si ritiene che possa correre di più e si scommette proprio sull'Italia. Beh, questo lo vediamo. Allora, al di là dell'effetto Renzi o non effetto Renzi, io sono sempre molto cauto su questo. Sicuramente c'era un'Italia che aveva prezzi di saldo per alcune cose, per cui c'era un paese che era stato messo ai margini per colpa nostra, della nostra politica e anche per un atteggiamento così, e anche per la gestione della crisi dell'euro da parte europea, e adesso evidentemente allontanandosi dalle prospettive di un'Italia che non ce la fa, non chiedete a me perché, ma notiamo anche noi. Visto che ne parlavamo poco fa con Antonella Mansi, insomma, BlackRock si è comprata, prima è il primo azionista di Intesa, di Unicredit, il secondo azionista di Intesa, mo è entrata anche nel Monte dei Paschi, cioè la voglia di Italia per comprare, alcuni mi diranno lo shopping, stiamo svendendo il paese, a me basta che venga venduto bene, nel senso che se c'è uno che ha i soldi li vuole mettere, pecunia non ho, se il progetto è serio, stiamo a aspettare sempre i soldi di alcuni nostri capitalisti che poi non arrivano mai se non tramite i salotti, per cui andiamo avanti con un'Italia che diventa, se mi passa il termine, più sexy, poi vedremo se questo è l'effetto Renzi oppure no. Ancora vorrei chiudere con te su due titoli. Vabbè, il credito bergamasco più 12,90 verrà inglobato dal Banco Popolare, invece Fiat più 2,55%. Fiat più 2,55% nel giorno dell'assemblea, l'ultima che si è tenuta a Torino, la prossima sarà ad Amsterdam, visto che cambierà la sede sociale. E nel corso dell'assise dei soci, l'amministratore delegato Sergio Marchionne ha ribadito che la società raggiungerà i target che si è proposta per l'anno in corso, ovvero 93 miliardi di euro di ricavi e un utile tra i 600 e gli 800 milioni di euro. Inoltre ha detto che vuole vendere tra 4,5 e 4,6 milioni di vetture entro fine anno. E infatti proprio di questo parliamo adesso. Grazie, onore Michele, Radio Cori, Sole 24 Ore. Mi riferisco alla nuova carta d'identità della Fiat, al nome che abbiamo scelto, a domicilio fiscale e legale, alla doppia quotazione a New York e a Milano. Sarei un ingenuo se non sapessi che ci sono anche aspetti emotivi collegati a questi temi, non soltanto qui in Italia ma da entrambe le sponde dell'oceano. Sono risvolti legati al fatto che entrambi i nostri gruppi hanno una storia secolare alle spalle. Fiat quest'anno compirà 115 anni, mentre la Chrysler ne farà 90 il prossimo. Allora, Andrea Malan, ci sono due cose del Sole 24 Ore che non ho capito nelle dichiarazioni di Marchionne, i conti li ricordava già adesso la nostra Eleonora Micheli. La prima, ha detto, non abbiamo nessun effetto significativo a livello fiscale dallo spostare la sede a Londra, e allora ti chiedo perché l'hai fatto. E la seconda è quando ha detto, è Chrysler che ha salvato la Fiat. Aiutami nell'esegesi, prego. Beh, la prima risposta l'ha data lui stesso. In sostanza la tesi è che il vantaggio fiscale consiste per gli azionisti della nuova Fiat, lui ha parlato degli azionisti americani, ma naturalmente ci sarà anche Exor della famiglia Agnelli, con la domiciliazione fiscale in Gran Bretagna non subiranno ritenute sui dividendi pagati in futuro da Fiat, quella che adesso è Fiat S.p.A. che si chiamerà FCA. Beh, un vantaggio c'è, scusami. Un vantaggio lui diceva che non c'è uno svantaggio per, diciamo, il fisco italiano, nel senso che la Fiat in quanto tale continua a pagare le tasse qua, certo, i suoi azionisti la famiglia, la famiglia Agnelli, lo stesso Marchionne, esatto. Insomma, hanno un vantaggio fiscale, diciamola tutta, se no diciamo perché l'hai fatta a Londra. Sì, ma l'ha detto vantaggio stesso, non è per la Fiat, è per noi, per gli azionisti. Esatto. Per quanto riguarda il secondo punto, che era? Il secondo punto era quando dice è la Chrysler che ha salvato la Fiat, non la Fiat che ha salvato la Chrysler. Beh, sono tutte e due, lui a seconda. Diciamo che lui va in America a dire che la Fiat ha salvato la Chrysler, viene in Italia a dire che la Chrysler ha salvato la Fiat. No. Beh, diciamo che sono vere. Sembra più crozza che Marchia. Sono vere entrambe le cose. Chrysler nel 2009 era fallita, se non fosse arrivata Fiat sarebbe fallita. Anch'io la ricordavo così. Se non fosse arrivata la Fiat, i soldi del governo americano, di quello canadese diciamo le chiusure di stabilimenti che sono state effettuate. Dopodiché, dopo 4 anni, facciamo 2 passi in avanti, il mercato americano dell'auto è in pieno boom, ha ripreso, è tornato ai livelli di prima, Chrysler fa utili, la Fiat in Europa continua a essere in rosso, in Brasile va così, guadagna meno di prima, quindi chi tiene in piedi i soldi, i conti del gruppo adesso è la Chrysler. Quindi, volendo dirla come l'ha detto, no, ho capito, hai ragione, però insomma, era un po' diversa. No, meno male che ci sei tu, perché ho capito sia perché la Fiat ha la sede adesso a Londra, cioè per il vantaggio fiscale per gli azionisti, sia cosa voleva dire Marchionne nel dire che è la Chrysler che ha salvato la Fiat. Diciamo che gioca italo-canadese, ogni tanto c'è la componente più italiana, altre volte quella più canadese. Vabbè, Andrea Malan, io devo chiudere, ti ringrazio perché mi interessavano veramente questi due focus. Da Sebastiano Barigione l'auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.